Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Becchessi. Oggi è il 2 maggio e la piazza che ha contestato il Partito Democratico e il sindacato. Questo è il tema di oggi. È accaduto a Torino e a Napoli il giorno del 1 maggio. Nel capoluogo piemontese un gruppo di autonomi ha preso di mira il Partito Democratico, il grido di via al PD e la polizia. Poi le forze dell'ordine hanno caricato i contestatori, mentre Diego Simioli, responsabile della sicurezza del PD, si è perfino rifiutato di difendere gli esponenti del suo partito, preferendo la riunione dei giovani dissidenti della pallacorda. Nel corteo degli autonomi un cartello inneggiava Luigi Preti. Intanto a Napoli la contestazione si è rivolta contro il sindacato con gravi tafferugli. Vi chiediamo al 349-238-6666 dove possono arrivare, fin dove possono arrivare queste contestazioni e se siete preoccupati di questa escalation di tensione e di violenza. Allora iniziamo il nostro racconto, la nostra narrazione di oggi da Torino, perché sono avvenuti fatti politicamente molto consistenti. Filomena Greco. Sì, Daniele, come hai anticipato tu, ci sono stati alcuni avvenimenti significativi durante il primo maggio torinese, degli avvenimenti che danno il polso un po' della situazione in una città e in una regione, vorrei ricordarlo, che ha il tasso di disoccupazione più alto tra quelle del nord, ed è stato un elemento ricordato dal palco del primo maggio da parte dei sindacati, soprattutto della UIL, e che a livello provinciale ha registrato anche il record nazionale di ore di cassa integrazione, come appunto provincia italiana, quindi in una terra in cui di fatto il rischio di perdita del tessuto manifatturiero è reale, è una minaccia reale di questi anni. Questi avvenimenti, dicevamo, danno un po' anche un'idea del dibattito che si sta svolgendo in casa del PD e fra il PD e la sua base, che è un po' un concetto, insomma, che ritroviamo nelle cronache politiche di questi giorni. Ma andiamo con ordine. Cominciamo dal primo elemento, cioè questa forma di protesta messa in scena per la prima volta nella storia del corteo da parte del primo maggio a Torino, da parte del servizio d'ordine del Partito Democratico, costituito da una settantina di persone, quindi un servizio d'ordine che ha radici abbastanza antiche, molto conosciute, che ha deciso prima del corteo del primo maggio di rendere nota questa sua posizione, questa sua protesta, cioè essere presenti alla manifestazione ma senza garantire la protezione ai dirigenti del partito, un modo per protestare nei confronti di questo accordo politico che a livello nazionale ha portato al governo Letta e all'accordo quindi con il PDL guidato da Berlusconi ed Angelino Alfano. Nel corteo era presente un furgone con un grande striscione proprio critico nei confronti dell'inciucio fra PD e PDL e sul tetto di questo furgone un pupazzo con le sembianze del giaguaro. In campagna elettorale, lo ricordiamo, Bersani aveva usato proprio l'immagine del giaguaro da smacchiare riferendosi a Berlusconi. Quindi un segnale di malessere, di malcontento espresso anche però dai cittadini, dagli elettori del PD, che è apparso evidente ieri nelle contestazioni all'indirizzo degli esponenti del PD presenti alla manifestazione. Il fatto che quindi la base, gli elettori, non abbiano digerito questo accordo in una giornata come quella del primo maggio a Torino è apparso in maniera evidente. Poi l'altra contestazione altrettanto forte, cioè quella da parte del movimento antagonista. Durante il corteo partito da Piazza Vittorio non sono mancate le contestazioni da parte dei gruppi dell'antagonismo e dei centri sociali, prevalentemente agli esponenti del PD, prevalentemente al sindaco di Torino Piero Fassino, col lancio di uova e qualche tafferuglio all'inizio del corteo e verso la fase poi finale della manifestazione. È stato contestato Fassino anche durante il suo intervento sul palco verso la fine. Contestazioni, devo dire, attese e consuete abbastanza in una città in cui il movimento No TAV è molto radicato, così come altrettanto radicato è l'antagonismo, che quest'anno però ha visto come variabile, diciamo, proprio l'essersi indirizzato nei confronti del PD. Queste proteste sono sfociate alla fine della manifestazione in una occupazione del palco con lo striscione di cui parlavi tu, in cui c'era la foto di Preti, l'uomo che ha sparato sulla folla e sui carabinieri davanti a Palazzo Chigi, con la scritta "il primo maggio è per voi, la crisi uccide", e nello striscione anche l'immagine di due coniugi marchigiani suicidi nelle settimane scorse per colpa dei debiti, delle difficoltà ad andare avanti proprio nella loro vita quotidiana. Ecco, tutto questo va completato con un altro elemento che un po' racconta quale dibattito interno ci sia nel PD torinese e piemontese, cioè proprio quello di cui parlavi tu, il cosiddetto patto della pallacorda, che è stato un avvenimento scaturito costruito un po' dalla base nei giorni scorsi, all'indomani dei voti, diciamo, per l'elezione del Presidente della Repubblica, che è stato promosso dai giovani democratici del PD torinese, che si sentono un po', diciamo, il terzo stato del PD, che quindi in questa fase di profonda trasformazione, di profonda crisi del partito vogliono, insomma, contare, farsi sentire di più, e che ha sollevato anche e che si è anche coniugato con una forma di forte malcontento da parte dei renziani del partito. Quindi queste sono le due anime politiche che sono emerse questi giorni. Gli incontri che hanno fatto sono due. Il tema centrale all'ordine, diciamo, nel dibattito politico, cioè dopo le dimissioni, diciamo, di Bersani dalla segreteria, quello di azzerare completamente la dirigenza locale del partito e soprattutto scegliere delle forme di rinnovamento radicale e andare verso un congresso che sia aperto un po' in continuità con i temi portati avanti nelle settimane e nei mesi scorsi. Bene, bene. Grazie Filomena Greco da Torino. Cominciamo a leggere tantissimi sms, sono arrivati al 349-238-6666. Abbiamo chiesto dove possono arrivare queste contestazioni e se siete preoccupati. Secondo Angelo è solo l'inizio delle rivolte. Secondo Nando da Cagliari la base del PD protesta anche per quei 101 che hanno tradito per le elezioni del Presidente della Repubblica. Secondo Giampiero, quando un padre di famiglia si trova senza reddito è capace di tutto e siamo solo agli inizi. Secondo Francesco, quando torneranno le leggi salva Caimano, ogni protesta sarà lecita. Festa dei lavoratori, dice Michael da Bari, dovrebbero fare quella dei disoccupati, il lavoro è tassato come un bene di lusso, ma i politici non lo capiscono. Un altro ascoltatore ci ricorda di dire dell'attacco all'Eucaristia fatto a Roma nel concertone. Ma cosa vi aspettavate, dice Stefano, se non cambia sarà soltanto l'inizio. Contestare i sindacati e la sinistra di primo maggio vuol dire fare il gioco di chi dice che ormai è una ricorrenza vuota, scrive Guido da Bergamo. Quando ad un popolo viene tolta l'identità, la ricchezza, il lavoro e la speranza, cosa ancora dobbiamo aspettarci perché esso si ribelli? Solidarietà massima con i militari feriti, vittime innocenti non designate. Il PD ha preferito trattare l'IMU con Berlusconi che il finanziamento dei partiti, con il 5 Stelle, un altro ascoltatore. 349-238-6666. Tafferugli sono accaduti anche a Napoli, vero Carmelo? Presti Simone. Esatto, Daniele, si sono registrati, ci sono stati dei tafferugli. Partiamo proprio dalle ultime notizie. 15 manifestanti tra ragazzi dei centri sociali e Cobas sono stati denunciati per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo gli scontri, tafferugli, appunto, come tu dicevi, di ieri sera al concerto del primo maggio a Bagnoli. Siamo alla periferia ovest di Napoli, nell'area di quello che è rimasto di Città della Scienza, bruciata lo scorso 4 marzo. La polizia è dovuta intervenire per fermare, appunto, queste persone. È stato un quarto d'ora di tensione autentica, lo spazio di 15 minuti tra le 19.30 e le 19.45. Tutto è nato da una richiesta di 3 manifestanti che volevano intervenire sul palco per denunciare l'esclusione di 3.000 cassaintegrati dai programmi professionali sottoscritti in Regione Campania. Altro motivo della contestazione riguarda la bonifica fatta solo in parte e non nel modo giusto nell'area dell'ex Italsider, siamo sempre a Bagnoli, e che ha prodotto inquinamento sui suoli. Su questa vicenda, ricordiamo, indaga la Procura di Napoli, ci sono 21 indagati e i carabinieri hanno sequestrato l'area proprio qualche settimana fa. La richiesta dei 3 manifestanti, e torniamo ai fatti di ieri sera, di intervenire sul palco, non è stata accolta dagli esponenti regionali di CGIL, CISL e UIL, quelli che hanno organizzato il concerto, che hanno replicato dicendo non incontriamo i violenti. A quel punto i manifestanti, circa 300, hanno scavalcato le transenne, sono volate sedie e tavoli e hanno fatto sentire tutto il loro disagio creando scompiglio nella folla. Il concerto è stato interrotto, non ci sono state conseguenze, nessun ferito o contuso, solo un bel po' di preoccupazione per quello che sarebbe potuto succedere se gli agenti di polizia non fossero intervenuti. Certo. Grazie Carmelo. Presti Simone in diretta da Napoli, dice Nico, tutto sta accadendo anche troppo tardi, il popolo italiano sta ormai per esplodere, dice Nico, e sono moltissimi i messaggi che sono arrivati più o meno di questo tenore. Comunque la pensate, questa Italia in controluce. Domani ritorniamo nuovamente alle 13.30 su Radio 24.